giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La protesta dei metalmeccanici per il contratto, in corso lo sciopero nazionale in regione, 56.000 i lavoratori interessati, cortei a Pordenone e Udine, presidi a Trieste e Monfalcone. Martina Oppelli non ha diritto ad accedere al suicidio assistito, rigettata dal Tribunale di Trieste la richiesta della 49enne affetta da sclerosi multipla. Liste d'attese, i dati di Asugi illustrati a Trieste, scendono i tempi di erogazione. È di un 60enne del posto, scomparso un anno fa, il corpo ritrovato a Trieste, all'ex stazione di Rozzol. Barcis è il rebus dello sghiaiamento, 2 assessorati regionali e 3 comuni coinvolti nel palleggio di decine di migliaia di tonnellate di materiale. Basket, Michele Ruzier rinnova il contratto con Trieste, firmato un pluriennale. Le 12:31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. Oggi lo sciopero nazionale dei metalmeccanici, una protesta indetta da FIM, FIOM e WILM per il rinnovo del contratto, con una piattaforma che rivendica aumenti di salario, riduzione dell'orario di lavoro, contrasto al precariato e agli infortuni. In regione manifestazioni in tutte le province, abbiamo seguito quella di Pordenone. Chiedono a gran voce sotto la pioggia il rinnovo del contratto, ma anche più sicurezza ai metalmeccanici e le metalmeccaniche, scese in piazza in tutta la regione e in tutta Italia. A Pordenone un corteo di circa 500 persone ha attraversato il centro storico fino alla loggia del municipio, dove è stato osservato un minuto di silenzio per il giovane morto in fabbrica a Maniago. Una vergogna e una sconfitta, ogni vita spezzata sul posto di lavoro, è stato detto, con un appello al presidente Mattarella per un lavoro dignitoso e sicuro. Roberto Zami, coordinatore WILM, Friuli Venezia Giulia. Siamo senza contratto da quasi un anno. A questo si aggiunge un altro tema estremamente delicato, che è contenuto anche nelle nostre rivendicazioni, riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro. Uniti non fanno altro che evidenziare la necessità di un lavoro sicuro, adeguatamente pagato, un lavoro dignitoso, in linea con quelli che sono i principi costituzionali del nostro Paese. Al centro della piattaforma presentata da FIM, FIOM e WILM, che con lo sciopero puntano a far ripartire la trattativa con le parti datoriali, le richieste su salario, riduzione dell'orario di lavoro, contrasto al precariato e più sicurezza. Gianni Piccinin, segretario regionale FIM. Federmeccanica non ci vuole dare i 280 euro che noi comunque abbiamo richiesto nella nostra piattaforma, sapendo che, voglio dire, c'è un'inflazione che comunque sta galoppando. Ci vogliono dare 0 euro. Sull'orario di lavoro non sono disposti a ragionare sulle 35 ore a parità di salario, nonostante le imprese abbiano una buona produttività. Alberto Larghi, FIOM nazionale. Il tema del salario, che è centrale, sul quale, diciamo così, si è consumata la rottura più grossa. Lo sciopero di oggi in tutta Italia, in tutte le piazze, serve per far riaprire la trattativa che effettivamente non è mai partita veramente. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il Tribunale di Trieste ha rigettato la richiesta di Martina Oppelli, triestina malata di sclerosi multipla da oltre 20 anni, di ordinare all'azienda sanitaria Asugi di applicare una sentenza costituzionale riconoscendo il suo diritto di accedere alla morte assistita. L'ho fatto sapere l'associazione Luca Coscioni, che segue il caso, precisando che la decisione del Tribunale è stata presa sulla scorta di una valutazione effettuata da medici specializzati. Secondo i medici e il Tribunale, scrive l'associazione, la donna non dipende da trattamenti di sostegno vitale, quindi non ha diritto ad accedere al suicidio assistito in Italia. Martina Oppelli ha 49 anni e i primi sintomi della malattia risalgono alla fine degli anni 90. La diagnosi di sclerosi multipla risale al 2002. Oggi la donna, secondo la storia riportata proprio dall'associazione Luca Coscioni, presenta una gravissima limitazione motoria con dolori e spasmi diffusi poco controllati dalla terapia, che la rendono totalmente dipendente da terzi per la conduzione di ogni attività. La sentenza della consulta sull'ammissibilità della richiesta di Martina Oppelli risale a giugno dello scorso anno e successivamente il Tribunale di Trieste aveva ordinato alla Asugi di procedere a una nuova valutazione delle condizioni della donna. E pur prendendo atto del peggioramento e riconoscendo la necessità di trattamenti vitali come l'uso della macchina della tosse e l'assunzione di una corposa terapia farmacologica, l'azienda sanitaria ha concluso che questi non costituiscono un trattamento di sostegno vitale e che dunque Martina non ha diritto di accedere alla morte volontaria. L'azienda sanitaria universitaria Giuliano Esontina ha intanto reso noti gli ultimi dati sulle liste d'attesa, che mostrano miglioramenti sia negli interventi chirurgici urgenti sia nelle prime visite ambulatoriali. Il 90% degli interventi chirurgici oncologici in classe A per il 90% dei casi viene erogato entro i 30 giorni previsti, quando nel 2019, quindi epoca pre-Covid, solo il 50% degli interventi veniva fatto rispettando lo stesso target. Migliorano significativamente anche le prime visite ambulatoriali, per esempio in priorità B, cioè con erogazione entro i 10 giorni, l'80% rispetta al parametro, questo nel 2025. L'anno prima era il 70%, quindi si migliora. Significativo l'investimento economico fatto dalla Regione proprio per migliorare i tempi d'attesa. Si è passati dal 2023 a un investimento pari a 11 milioni di euro al 2025 con quasi 15 milioni di euro. Si è conclusa poco fa la conferenza stampa in Asugi, dove sono stati dati nel dettaglio i dati. Noi siamo con il direttore generale Antonio Poggiana e le chiedo, chiaro, ci sono più soldi investiti in questo, però anche avete efficientato le procedure. Quali? Le procedure di sala operatoria, cioè l'attività di sala operatoria è un'attività molto complessa, che comporta l'intervento di più operatori e con compiti e responsabilità diverse. Quindi migliorare i percorsi, le procedure di intervento, l'utilizzo degli spazi e del tempo, quindi in una parola solo, efficientare l'utilizzo della risorsa sala operatoria, perché la sala operatoria è una risorsa molto importante, ci sono importanti risorse umane, tecnologie, procedure, e quindi lavorare sull'efficientamento ci ha consentito di migliorare, di aumentare la produttività e una risposta più efficiente ai tempi. È aumentata la richiesta di visite del 40% in 2 anni. Sono sbagliate le prescrizioni che vengono fatte? Noi notiamo una iperprescrizione che ragionevolmente è poco coerente rispetto ai grossi volumi di incremento. Non possiamo pensare siano legate a un peggioramento delle condizioni di salute della popolazione generale. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora la cronaca nera con le indagini sull'accoltellamento di ieri pomeriggio a Udine. Il ferito, un 25enne afghano, sarebbe fuori pericolo. È stato arrestato dalla polizia il presunto colpevole dell'accoltellamento di ieri pomeriggio ad un afghano poco più che 20enne. Si tratta di un giovane marocchino che avrebbe agito per motivi personali, forse per ritorsione, ma la polizia, che sta conducendo le indagini, non ha ancora certezze su questo aspetto. L'accusa è di tentato omicidio. È stato aperto un fascicolo dalla Procura della Repubblica di Udine. Si è trattato dell'ennesimo fatto di sangue avvenuto in Borgo Stazione. Al vaglio degli inquirenti anche la posizione di altre due persone che avrebbero agito in concorso con l'aggressore. Il ferimento è avvenuto in via Roma, con la vittima che è stata soccorsa sul marciapiede di Piazza della Repubblica e trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Ora si trova nel reparto di terapia intensiva con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore ha colpito il giovane afghano al fianco sinistro mentre stava passeggiando con alcuni amici e poi è fuggito. Si tratterebbe invece di un episodio di autolesionismo il ferimento, che pressoché alla stessa ora ha visto come vittima un altro cittadino afghano rinvenuto a terra in piazzale Cella. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. È stato identificato il corpo dell'uomo recuperato ieri alla riserva della Cona. I familiari hanno infatti confermato l'identità di Diego Zaccheo, 63 anni, odontotecnico di Porto Gruaro, di cui si erano perse le tracce lo scorso 15 febbraio in seguito a un'escursione in barca nel canale Isonzetta in direzione di una cava di sua proprietà. Ancora non note le cause del decesso dell'uomo, avvenuto in una giornata di vento di bora e di correnti agitate. Molto probabilmente sono di un 60enne senza fissa dimora, i cui familiari avevano denunciato la scomparsa un anno fa. I resti ritrovati ieri a Trieste nella stazione abbandonata di Rozzoli, in strada per Montebello. Ritrovamento avvenuto in modo casuale in seguito alla presenza di alcune persone che stavano visitando l'area perché interessate all'acquisto di un terreno nella zona. Nell'area del Porto Vecchio di Trieste si è svolto questa mattina un sopralluogo di 2 commissioni del Comune per verificare lo stato dei lavori nell'area interessata dai cantieri. Comincia con un duello dialettico la visita dei consiglieri in Porto Vecchio tra la prima firmataria della richiesta del sopralluogo Pucci del PD e il presidente della commissione Cinque Palmi di Fratelli d'Italia. A base del bisticcio e ritardo con il quale è stata organizzata la visita dei consiglieri, la richiesta è stata ricevuta dagli uffici in data 2 ottobre 2024, convocata entro 5 giorni ma poi posposta per esigenze organizzative e meteorologiche. L'opposizione ha dunque voluto sincerarsi dello stato del sito prima della votazione della delibera della proposta Costim, avvenuta poi a metà ottobre. A pacificare la situazione l'assessore Bertoli, che ha ribadito che le destinazioni d'uso previste dal piano regolatore del 2021 non potranno essere riviste e sono garantite dalle procedure del partenariato pubblico-privato. La visita è poi proseguita in un clima disteso a fare da guida l'ingegnere Bernetti, che ha indicato ai consiglieri le varie destinazioni d'uso dei magazzini, quelli affidati alla regione, lo studentato da 200 posti, gli edifici di minor pregio architettonico che ospiteranno i parcheggi. Spiccano le anomalie protette dalla sovrintendenza, l'ex locanda e la pesa. Al momento non è prevista una loro demolizione o il rifacimento. Il viale intermedio sarà interessato da alberature e tra queste sorgeranno i piloni dell'Ovovia. Apertura del nuovo cantiere l'8 aprile. L'ingegnere Giulio Bernetti. È aperto in questo momento il viale monumentale, 19 milioni, la cittadella dello sport 5 milioni e apre il parco lineare di 23 milioni. Invece per quanto riguarda il cantiere stesso ci sono delle problematiche? Abbiamo alcune criticità in termini di presenza d'acqua nel viale monumentale, le stiamo risolvendo con una trincea ausiliaria più profonda e con delle pompe che devono servire a tenere asciutto lo scavo principale. Questo potrebbe portare a qualche ritardo? Ma allo stato attuale siamo ancora nei tempi previsti. Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. La questione dei dati dazi statunitensi sempre al centro dell'attenzione. Ne abbiamo parlato con Cristina Scocchia, amministratrice delegata della Illy Caffè di Trieste, azienda per la quale gli USA sono un riferimento imprescindibile per le esportazioni. I dazi di Trump si abbatteranno sul commercio mondiale, ma saranno un boomerang per la stessa economia americana. I cambiamenti geopolitici in atto e le tempeste in arrivo, visti da una prospettiva particolare, quella del mercato del caffè e della Illy, uno dei colossi mondiali del settore, che infatti sta già pensando di correre ai ripari. Cristina Scocchia è amministratrice delegata di Illy Caffè. Stiamo valutando se è possibile produrre alcuni dei prodotti che commercializziamo sul mercato americano proprio negli Stati Uniti. Questo ci permetterebbe di aggirare ovviamente i dazi. Gli Stati Uniti sono il principale mercato mondiale del caffè, per Illy sono il secondo cliente dopo l'Italia. L'apertura di una filiera negli States ridimensionerà lo stabilimento di Trieste? Assolutamente no, questo lo escludo in maniera molto chiara. Noi abbiamo dichiarato che investiremo a Trieste 120 milioni per raddoppiare la nostra capacità produttiva e questo investimento è confermato nonostante la tempesta perfetta. Abbiamo dato l'avvio ai lavori per la costruzione della nuova tosteria. Negli ultimi 15 mesi abbiamo assunto 80 persone proprio nel reparto produttivo e continueremo con questi investimenti e con questo aumento della nostra occupazione. Per gli Stati Uniti, che non soffrono di disoccupazione e introducono politiche migratorie restrittive, lo stesso arrivo di nuovi stabilimenti sarebbe paradossalmente un problema. Non hanno bisogno di creare nuovi posti di lavoro, nuova occupazione, anzi con la politica migratoria di Trump avere nuove aziende che producono lì provocherebbe un problema inflattivo importante per le aziende americane. Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca: due cittadini sloveni sono indagati dopo essere stati trovati a Gorizia a bordo di una vettura risultata rubata. Sull'auto c'erano anche due zaini contenenti passamontagna, guanti, una smerigliatrice, un manganello, un taglierino, torce, cacciaviti e altri attrezzi. Il più giovane, un 29enne, aveva dato agli agenti della Volante un nome falso e dopo i controlli è stato arrestato. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare del divieto di dimora in tutto il Friuli Venezia Giulia. Il presunto complice è stato denunciato a piede libero per ricettazione e porto di oggetti atti a offendere. Sono oltre 2 tonnellate i ricci di mare sequestrati nel mese di marzo ai valichi italo-sloveni di Pese e Rabuiese dagli uomini della Guardia Costiera durante controlli sulla tracciabilità e la conservazione dei prodotti ittici. I ricci provenivano dalla Croazia ma senza la documentazione necessaria per la vendita e il consumo in Italia. Una questione annosa, quella dello sghiaiamento del lago di Barcis, che ora si complica per la più recente delle decisioni, l'asportazione di migliaia di tonnellate di materiale. Di mezzo ci sono 2 assessorati regionali e 3 comuni. Stessa regione autonoma, Friuli Venezia Giulia, stesso lago, quello di Barcis, stessa ghiaia da asportare che nessuno vuole. 2 filosofie diverse. Un assessorato, quello alle infrastrutture e territorio, la sta portando in giù, verso valle, dopo la diga di Ravedis, passando da Monterreale Valcellina. Un altro assessorato, quello all'ambiente ed energia, vorrebbe portarla in su, a monte, nella zona industriale di Pinedo, tra Clout e Cimolais, scatenando le proteste di queste 2 amministrazioni comunali. Al momento i sindaci preferiscono non commentare, ma da documenti venuti in nostro possesso chiederebbero alla regione perché stoccare altre ghiaia lungo una sezione di torrente già sovralluvionata, dove in passato è già stata trasportata, sezione che necessiterebbe essa stessa di interventi di sghiaiamento. Perché, chiedono poi, spendere 2 milioni di fondi pubblici per rimuovere 80.000 tonnellate di materiale, quando ogni anno se ne accumulano 250.000? È già stato realizzato un nuovo ponte a Barcis da utilizzarsi per portare a valle la ghiaia, sarebbe illogico riportarla a monte, e manca infine la posizione dei 2 comuni, il convitato di pietra, che è il caso di dirlo, è il concessionario. Si è innalzato troppo il livello idrometrico, troppi i rischi per la viabilità. L'altro assessorato al territorio sta intanto portando oltre Monterreale Valcellina 50.000 metri cubi di ghiaia. Qui c'è il problema del transito dei camion in paese, dove la carreggiata è stretta, ma i camion con la ghiaia non li vogliono neanche a Cimolais e Clout. Le motivazioni per cui la ghiaia verrebbe portata a monte sarebbero tecniche di ricostruzione delle sponde, non politico-amministrative, legate a uno o all'altro comune, rende noto l'assessorato all'ambiente. Per interventi massicci servirebbero investimenti da 100 milioni di euro per la viabilità che bypassi tutti i centri abitati. La concessione con Edison scade nel 2029 e dal 2027 si predisporrà una nuova gara. Ripristinare la volumetria del lago potrebbe essere un requisito, assieme alla rimozione annuale dei 250.000 metri cubi che si depositano ogni anno. L'invaso di Barcis è ormai pieno al 70%, denuncia il consigliere regionale Furio Onsel. Le obbligazioni dei concessionari risalgono agli anni 50 e non prevedono obblighi specifici. Il comitato Valcellina ricorda che la regione paga 30 euro per ogni metro cubo di ghiaia portato via, soldi che si stanno facendo risparmiare al concessionario. Barcis, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. 12.47, uno sguardo alla situazione del tempo, cielo coperto sul Friuli Venezia Giulia e queste sono le temperature delle 11, a Trieste 14 gradi, a Gorizia 16, a Pordenone 15, a Udine 13, nell'area montana a Tolmezzo 13.5, a Tarvisio 6.5, a Sappada e sul Piancavallo 8.5, a Forni di Sopra 9.5 e in quota sullo Zoncolan 2 gradi, sul Lussari 0, sulla costa a grado 12.5, a Lignano 12. Per le previsioni meteo del fine settimana abbiamo intervistato Francesco Sioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale. Nel fine settimana le condizioni meteorologiche saranno piuttosto dinamiche e nella giornata di sabato sentiremo ancora l'influenza di una depressione che porterà aria umida in quota, quindi domani cielo da nuvoloso a coperto, con piogge che saranno sparse, intermittenti, in generale deboli, al più moderate verso il Tarvisiano e più probabili nella prima metà della giornata e sulla fascia orientale. La quota neve sarà tra i 1.400 e i 1.600 metri. Caratteristica di domani, ancora il vento che soffierà moderato da nord o nord-est in quota. E da domenica invece un cambio per quanto riguarda il tempo meteorologico, infatti avremo cielo al più variabile al mattino, poi dal pomeriggio cielo poco nuvoloso o anche sereno. Ancora continuerà a soffiare vento da nord o nord-est sia in quota che sul Carso e a Trieste, non si esclude ancora qualche raffica più sostenuta in quota. Lunedì e martedì continuerà il bel tempo con cielo in prevalenza sereno, ma ci sarà un ulteriore rinforzo dei venti, specie in quota. Per quanto riguarda le temperature, cosa possiamo attenderci? Le temperature rimarranno in media o leggermente al di sopra della media del periodo per domani e dopodomani, tuttavia da domenica in seguito, con appunto maggiori rasserenamenti, le temperature minime tenderanno a scendere leggermente. Ora gli spettacoli, la musica. Benedetto Lupo chiuderà questa sera a Sacile la stagione concertistica della Fazioli. Dai primi anni 90 il pianista barese è ospite regolare delle maggiori istituzioni musicali e nella sala sacilese, con inizio alle 19 19.30 proporrà un programma tutto dedicato a Ravel, di cui quest'anno si celebrano i 150 anni dalla nascita. Domani sera Lupo suonerà a Udine, a Palazzo Antonini, per la stagione dell'Accademia Ricci. Altri spettacoli di oggi: al Verdi di Pordenone, Antonio Albanese propone in esclusiva Regionale Personaggi con una carrellata storica. Pierino e il Lupo, capolavoro di Prokofiev, va in scena al Teatro Maurensig di Feletto Umberto per la prima volta nella trasposizione in friulano. Sul palco la Friuli Venezia Giulia Orchestra, diretta da Paolo Paroni, la voce narrante è quella dell'attore Adriano Sabotto, l'inizio alle 20.30. Al Teatro dei Fabbri di Trieste sarà in scena da oggi a domenica La cameriera di Puccini di Nicola Zavagli con Beatrice Visibelli e François Machrechi. Sul palco il grande compositore è raccontato da chi l'ha conosciuto bene in una narrazione che non nasconde passioni e scandali. Appuntamento alle 20.30. Al Miela di Trieste Marta Cuscunà è la protagonista di È bello vivere liberi, progetto di teatro civile con 5 burattini e un pupazzo ispirato alla biografia di Ondina Peteani, prima staffetta partigiana d'Italia deportata ad Auschwitz, alle 20.30. È dedicata al tema della violenza di genere la conferenza concerto Carmen, il prezzo della libertà, che si terrà a Udine al Teatro Nuovo alle 17.30. L'interpretazione di alcune pagine di Carmen, capolavoro di Giorgio Bizet, che quest'anno celebra 150 anni dalla prima rappresentazione, sarà affidata a soprano Paoletta Marrocco e al tenore Emanuele Epis, con la storia di Carmen, che paga con la vita il rifiuto alla sottomissione a un uomo. Tra le relatrici il magistrato Claudia Danelon, procuratore aggiunto a Udine, impegnata nel nucleo interforze Codice Rosso per contrastare la violenza di genere. Un concerto benefico del cantautore Pablo Perissinotto a sostegno dell'associazione Le Petit Port, fondazione pediatrica, è in programma questa sera alle 21 al Capitol di Pordenone. L'iniziativa vuole sensibilizzare sulla necessità dell'assistenza pediatrica domiciliare a sostegno dei volontari della fondazione. Passiamo allo sport con il basket. Michele Ruzier prolunga il contratto con la Pallacanestro Trieste, lo ha comunicato il club biancorosso, che tuttavia non ha fatto sapere quale sarà la nuova scadenza, parlando solo di rinnovo pluriennale. Oggi un giorno di festa per la città e la sua tradizione cestistica, ha commentato il direttore generale Arcieri. Michele è un figlio di questa terra ed è un giocatore speciale, la sua presenza è fondamentale per il successo del nostro lavoro quotidiano. Ruzier, 32 anni, è cresciuto a Trieste ma ha vestito anche le maglie di Venezia, Fortitudo Bologna, Cremona, Varese, Virtus Bologna e naturalmente della nazionale. In questo campionato, nelle 10 gare in cui è partito in quintetto, ha messo a segno quasi 14 punti di media con oltre 5 assist. C'è tempo ancora per una segnalazione: i risultati del progetto Impariamo la storia di Resia e della regione Friuli Venezia Giulia saranno presentati nel centro di aggregazione giovanile La Casa di Crama di Prato di Resia alle 17. L'iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie della regione, ha visto il lancio di un bando di concorso inteso alla raccolta di testimonianze sulla memoria dei fatti e dei personaggi che hanno caratterizzato la storia regionale del Novecento. È tutto per questa edizione, redatta e condotta da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Walter Vidonis e Paolo Cassano, collaborato in redazione Laura Sarasini. 12:53 minuti esatti, la prossima edizione oggi alle 15. Grazie per averci seguiti e ancora l'augurio di un'ottima giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.